faccio oppresso, cadrà il nemico audace, cadrà il nemico audace. Credimi, il regno è stesso, il regno io cederò, sì, io cederò. Se dal suo braccio presso cadrà il nemico audace, credimi, il regno è stesso, il regno io cederò. Il regno io cederò, il regno io cederò. Rioni a questo petto, col suo valor la pace, nell'amor suo l'oggetto rendere a lui saprò, rendere a lui saprò. Se dal suo braccio presso cadrà il nemico audace, cadrà il nemico audace. Credimi, il regno è stesso, il regno io cederò, sì, io cederò. Se dal suo braccio presso cadrà il nemico audace, credimi, il regno è stesso, il regno è stesso.